Pronto? Buongiorno, mi scusi se mi permetto di disturbare, signorina. Parlo con lo spettabile centralino della illustre società Italpetrolcemetermotessinfarmometalchimica. Chimica, chimica, Italpetrolcemetermotessinfarmometalchimica. Chimica, chimica, Oh, grazie signorina centralinista. Lei è molto... molto gentile con me, grazie.